Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Allora, parleremo delle misure annunciate nel fine settimana dal Presidente del Consiglio Conte, mi riferisco ai fondi per i comuni, soprattutto sia il fondo di emergenza, i 400 milioni per la protezione civile, sia l'anticipo di 4 miliardi e 300 milioni ai comuni per gli aiuti alimentari, anche su come saranno distribuiti e quant'altro. In base chiaramente alla popolazione, si verranno distribuiti buoni spesa o generi alimentari. La scelta lasciata ai sindaci su base regionale: la Lombardia riceve le maggiori risorse, 55 milioni, 50 milioni alla Campania, 43 alla Sicilia, 36 al Lazio, alla Puglia 33, al Veneto 27 milioni, all'Emilia Romagna 24, al Piemonte 24. C'è un bilanciamento tra il reddito pro capite e il numero di abitanti. Per, faccio un esempio, la Campania e la Sicilia ricevono risorse superiori al Lazio pur avendo un numero inferiore di abitanti rispetto al Lazio, perché si va a vedere anche il reddito pro capite. Di questo parleremo in apertura. Chiaro che andrà solo ai più bisognosi. Ho letto delle ipotesi di dividere i soldi per il numero di italiani. Non è questo il metodo sarà per le famiglie più bisognose. Poi ci sono varie dichiarazioni sull'idea di estendere il reddito di cittadinanza a un reddito di emergenza. Ripeto, per la ventesima volta forse, che il reddito di cittadinanza, lo dicevo in tempi non sospetti, come misura di welfare a noi convinceva, anche perché era il rafforzamento e l'estensione del reddito di inclusione varato dal governo Gentiloni, varato poco come ammontare e tardi. Non ci ha mai convinto, ma mi sembra che non sia neanche nel dibattito adesso, il reddito di cittadinanza come elemento per trovare lavoro, quindi come politica attiva per il lavoro, i navigator, quello insomma, abbiamo sempre ritenuto che fosse fallace, che fosse anche fittizia l'immagine di navigator che potevano trovare lavoro, ma se si tratta di integrare salari o pensioni è chiaro che in questo momento quello è uno strumento come lo era anche nel passato. Poi vedo molti messaggi sui lavoratori in nero. Guardate, non è che il tema non sfugga, il problema è perché qualcuno mi sta scrivendo, ma ci sono per esempio lavoratori che hanno un parte dell'attività in nero, soprattutto alcune professioni, mi scrivono molti ascoltatori. Ho capito, è molto difficile però calcolare il nero, cioè quello che non vorremmo è dare soldi pubblici a chi dichiara, diciamo, fatturati in nero magari più alti di quelle che è la realtà. È molto complicato questo, meglio piuttosto, se si hanno delle dichiarazioni del genere, ricorrere a altri strumenti come il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza. Perché diventa molto, siccome poi si va a fare le verifiche anche sui fatturati degli anni precedenti, spiegheremo anche come partiranno da inizio aprile cassa integrazione in deroga e soprattutto la parte dei 600 euro, un click sul sito INPS dal primo del mese e a chi si estende anche i 600 euro, però è molto difficile poi andare a valutare quando tu dici di aver perso, non so, il 30% del fatturato, se buona parte del tuo fatturato era in nero. Come facciamo a fidarci? Fermo restando che io sono dell'idea che resti un reato. E, ho capito, dici, in alcuni casi nel sud, ma non solo, vi saranno persone che però non riescono ad andare avanti. Allora ricorri alle forme di assistenza sociale, tipo reddito di cittadinanza, la trovo più corretta, dichiara che tu non stai fatturando, ma è difficile andare a fare il confronto con un fatturato tuo presunto perché era tutto in nero. Insomma, cerchiamo di mantenere un po' di serietà. Allora, su questo, per quello che riguarda invece il fronte europeo, oggi lo faremo di cronaca, non ci sono molte novità, c'è lo scetticismo di Gentiloni sull'ipotesi che possa passare il Corona Bond a livello tedesco, che è la Germania il vero problema in questo momento, come abbiamo detto più volte. Molti mi chiedono perché, ma ne parleremo più avanti con Alessandro Platerotti sulla trattativa in corso, perché è così importante un debito europeo, tanto sempre debito è. Sì, con una piccola differenza, cioè nessuno sta dicendo che poi l'Italia non dovrebbe pagare la sua quota di debito contratto attraverso i Corona Bond o gli Euro Bond. Qual è la differenza? È che se il debito che tu devi ridare è garantito a livello europeo, questo non ti espone alla speculazione dei mercati finanziari. Se invece il debito è tutto, diciamo, garantito dallo Stato che lo ha emesso, è ovvio che poi, finita sta crisi, i mercati inizieranno a distinguere tra chi ha emesso debito e può sostenerlo e chi ha emesso debito e è più a rischio, andando a penalizzare in automatico tutte le economie del sud Europa. Ecco perché non è tanto un soldi che tu non ridai più, erano soldi garantiti a livello europeo, quindi tu non puoi mettere in discussione quel debito perché lo garantisce l'intera Europa, non va a incidere nella valutazione sul singolo Stato. Altre formule a cui si pensa adesso, la Banca Europea degli Investimenti, da un lato forme, vedo ipotesi di, diciamo, che abbiamo anche noi valutato e analizzato in queste settimane, di debiti a lunghissima scadenza, quasi prestiti nazionali irridimibili, quindi che garantiscono solo gli interessi, però insomma oggi mi sembra che non vi sia grandi novità rispetto al nulla di fatto della settimana scorsa, ma ne parleremo. Parleremo appunto da von der Leyen, poi si è mezza corretta ieri, c'è il problema della Banca Centrale Europea che non può obiettivamente fare molto di più e via così. Nel finale parleremo del mondo degli esercizi commerciali, perché continuiamo ad analizzare i vari settori da questo punto di vista, cioè i settori più colpiti e i settori che sono anche stati meno colpiti. Ci sono varie indicazioni su questo che hanno a che fare anche appunto con chi lavora nel mondo del consumo, e c'è una fotografia oggi scattata sulle nuove abitudini d'acquisto dei consumatori in tempo di quarantena. Faccio notare che si registrano pochi picchi di spesa nel weekend o alla sera, e c'è una maggiore distribuzione degli orari in cui si va a fare la spesa. Ecco perché dico che bisogna stare molto attenti a ridurre gli orari della grande distribuzione organizzata, per evitare si creano i picchi che invece in questo momento sono scomparsi. Vedremo anche delle percentuali stabilite sul numero di acquisti quando vengono effettuati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Due notizie appena uscite. Una è Standard & Poor's, l'agenzia di rating, che stima che l'Italia un PIL in calo del meno 2,6% quest'anno, è una ripresa di più 3% nel 2021, ma dice Standard & Poor's non c'è bisogno in questo momento di aggiustare il rating, cioè di modificare il voto dato all'Italia, almeno questo. Poi invece la Banca Centrale Europea ha fatto sapere di aver comprato titoli per 15 miliardi e mezzo di euro nei primi due giorni della settimana scorsa. Parte di questi sono anche titoli italiani, questo nell'ambito del piano Pandemic Emergency Purchase Program, quindi acquisto di titoli di Stato per il piano straordinario anti-coronavirus. I mercati, dicevo, oggi molto altalenanti, adesso sono tornati in positivo. Parigi più 0,10, quindi insomma, Milano invariata, Francoforte più 1,11, Dow Jones più 1,80, Londra più 0,14%, tra i titoli bene di Assorin più 7,80, Recordati più 6,5, Italgas più 5,80, A2A più 5,5, ST più 5, Snam più 4,40, Nexi più 4, ERA più 3,80, Enel più 3,5, Eni più 3%, Moncler più 1,80. In fronte opposto vede le banche oggi, anche perché la BCE ha invitato a non fare buyback e distribuire dividendi. Devo dire che in Francia hanno fatto una cosa diversa ancora, hanno detto a tutte le imprese che distribuiranno dividendi che non potranno ricorrere a cedere agli aiuti al programma di aiuti. Mi sembra più che corretto, cioè non è dire semplicemente non puoi fare dividendi, però se tu hai utile che distribuisci agli azionisti non puoi certo chiedere soldi pubblici, cioè non è che puoi privatizzare gli utili e socializzare le perdite, come si diceva una volta. Quindi se decidi, questa com'è una regola che andrebbe anche valutata in Italia, se decidi legittimamente di distribuire utili agli azionisti vuol dire che i soldi li hai e non puoi chiedere aiuti di Stato, aiuti, non puoi accedere al piano. La BCE ha chiesto alle banche da lei vigilate di non fare operazioni di buyback, cioè riacquistare azioni, né di distribuire dividendi, perché dice i soldi vi devono servire per elargire credito. Insomma, questo è alle imprese e alle famiglie. Ne prendono atto le banche, perché Unicredit perde l'8,16%, Intesa il 6,80%, Mediolanum il 5%, Mediobanca il 4%, UBI il 3,5%, Banco BPM meno 3,30%, Atlantia, poi che non c'entra col mondo bancario, perde il 6,90%. Poi molti messaggi sullo studio dell'Università di Harvard sugli errori fatti dall'Italia, per carità, nella gestione. Allora, anche lo studio di Harvard segnala che vi è stata anche una sfortuna, perché siamo stati i primi, però dice c'era l'esempio della Cina. Sì, sulla Cina vorrei dire una cosa. Allora, apprezzo l'aiuto dei cinesi alle mascherine, ma la Cina è stata tutto tranne che trasparente nel diffondere le informazioni sulla portata del coronavirus, le informazioni reali sui morti. Io non crederò mai alla statistica per cui i contagiati sono ormai, gli Stati Uniti ne hanno 145.000, l'Italia 97.000, la Spagna 85.000, poi verrebbe la Cina con 81.000. Se mi volete raccontare che in Cina sono solo 81.000 e che i morti in Cina sono stati solo 4.000, io non ci credo, punto, è mio diritto non crederci. Non penso che le informazioni che arrivano dalla Cina, non tanto la condivisione dei laboratori, degli studi, ma le informazioni che sono arrivate sulla, diciamo, di carattere sociale, siano veritiere. Il medico che aveva beccato il coronavirus, prima lo hanno arrestato, poi lo hanno reso eroe, nel frattempo è morto e via così. È un paese non trasparente, cioè questa crisi ci sta insegnando, questa epidemia, anche la differenza tra democrazie che avranno mille difetti nel organizzare il lavoro con un dibattito forse più lente, e paesi non democratici, vedi la Russia che non si capisce bene c'è o non c'è il coronavirus, e vedi la Cina dove le informazioni, da quello che abbiamo capito, il virus era in circolazione già dall'8 di dicembre e comunque dal 6 gennaio, e l'effetto pandemico col cavolo che la Cina ci aveva spiegato. Detto questo, e quindi non crederò mai alle informazioni che arrivano dalla Cina, e questo deve fare poi aprire, dopo finita questa emergenza, una riflessione anche sulla globalizzazione, che per me, per quello che vedo io, è bella che è morta per come l'abbiamo conosciuta, ma anche sulla opportunità di avere produzione e filiere in paesi poco trasparenti da questo punto di vista, perché poi quando hai emergenze meglio avere le informazioni, per carità, gestite dall'Italia che non dalla Cina. Almeno l'Italia ha dimostrato quello che è il livello di contagio di questo virus sulla nostra pelle. Comunque, tornando al livello italiano, lo studio di Harvard dice che abbiamo sottovalutato i rischi, c'è un effetto psicologico, tutti tendono a sottovalutare i rischi quando sarebbe il caso di agire, cioè all'inizio, e ricordano la campagna Milano non si ferma, gli aperitivi, dicono i politici non ascoltavano gli esperti. Per carità, tutti abbiamo visto Zingaretti, Salvini, Fontana, Sala dire all'inizio, e non sto dicendo, ma faccio autocritica anche io, cioè all'inizio anche noi pensavamo che un insieme di restrizioni fossero eccessive. Per carità, siamo stati la vera cavia, perlomeno la prima cavia democratica e trasparente a livello mondiale, e gli errori sono stati fatti. E poi dice lo studio di Harvard che è stato sbagliato fare i provvedimenti graduali, e quindi fare l'isolamento sociale in maniera progressiva, andava chiuso tutto e subito, benissimo. E il fatto che la sanità è gestita in maniera diversa dalle regioni, meglio ha fatto il Veneto, un maggior numero di test e operatori sanitari più protetti, male la Lombardia, dove oggettivamente qualche problema nella sanità lombarda si è rivelato. Non è il caso di aprire polemica adesso, ma forse il modello lombardo rispetto al modello Veneto qualche colpo in testa lo sta tirando. Qualcuno mi ha scritto su Formigoni e la gestione di Formigoni con la sanità privata. Bisogna ripensare forse anche al modello lombardo, dove i centri d'eccellenza ci sono, tanta sanità privata, però poi è sembrata venir meno l'efficienza di quella pubblica in alcuni casi, senza nulla togliere allo sforzo immenso degli infermieri e dei medici. Ed è innegabile che il modello Veneto come sanità evidentemente è stato meno toccato dalla trasformazione lombarda. Qui bisognerà poi fare un ragionamento complessivo, al di là di Formigoni, al di là, diciamo, di CL, non so neanche che fine abbia fatto CL, ma insomma qui il problema è proprio di sistema. Detto questo, vorrei dire agli amici americani di Harvard, è facile poi valutare col senno di poi, perché se dovessimo andare a guardare, allora l'Italia avrà fatto sicuramente cose che avrà sottovalutato, ci siamo mossi a scaglioni, non chiudendo tutto il paese in una volta, per carità. Però io vorrei dire, mi aspetto un'analisi identica da Harvard anche sull'approccio che ha avuto per esempio la Francia. Io ho già letto la lettera famosa della ragazza, la Francia che ha fatto fare le indizioni amministrative, la Spagna che si è beccata l'8 marzo 100.000 persone in manifestazione, qua l'8 marzo eravamo già chiusi in Lombardia e in buona parte del Veneto, chiusi come zona rossa. Vogliamo parlare degli Stati Uniti, di un Trump che adesso dice andrà bene se siamo sotto, qual era la frase, sotto i 20.000 morti saremo soddisfatti, e prima diceva che sostanzialmente era poco più di un'influenza. Vogliamo parlare della Gran Bretagna e se avremo meno, se riescono a mantenere sui 100.000 o meno i morti, avremo fatto un buon lavoro. Uno che due settimane fa diceva che era un'influenza, che non avrebbe chiuso il paese, Boris Johnson, che è in isolamento pure lui, ve lo ricordate, dovremmo abituarci a perdere i nostri cari. Ora va bene criticare l'Italia così, ma mi chiedo, mi aspetto da Harvard una critica identica ai paesi che almeno avevano l'Italia, che aveva commesso degli errori a mio avviso non sempre giustificabili, ma eravamo i primi in una democrazia. Mi chiedo che giudizio dai sugli altri, sulla lentezza con cui sono partiti, perché a me dispiace moltissimo per gli amici spagnoli che sono il terzo paese oggi, 85.000 casi e 7.340 morti. La Francia deve ancora dare il dato, ma va verso i 45.000 casi, è arrivata a 40.000 ieri, 2.600 morti. Qui il Regno Unito è in ritardo di due settimane a 20.000 casi oggi e 1.200 morti. Guardate che purtroppo, come continuo a dire, il rapporto morti e casi, a parte il mistero della Germania, diciamo così, è molto simile, perché il Regno Unito con 20.000 casi, adesso sapete che ho tutte le mie tabelle, le riprendo, eccolo qua, ha esattamente gli stessi morti che avevamo noi con quei casi, parlo tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, avevamo intorno ai 20.000 contagi totali e già 1.400 morti. La Gran Bretagna è a 19.000 contagi e 1.200 morti. Quindi qualcuno mi dice, guardi che la Spagna è collassata per un numero di casi come il nostro diffuso in tutto il paese. No, in realtà loro hanno anche un problema, che è soprattutto Madrid. Però dicevo, insomma, va ben tutto, l'Italia avrà commesso degli errori. Quando sei il primo a tracciare un sentiero, caschi anche, sbagli, per carità, è un po' più grave giustificare chi stava dietro e ha visto noi commettere alcuni errori, inciampi, cadute, e le ha riproposte paro paro. Dunque, sulla solidarietà tedesca, no, ma la Germania sta accogliendo alcuni pazienti italiani in terapia intensiva, e anche a me ha fatto molta specie vedere il discorso del premier albanese, diciamo, noi non ci dimentichiamo la solidarietà che l'Italia ha avuto con l'Albania, e vedere che in Germania si continuano a dimenticare di non aver pagato i debiti, e che tra l'altro sia la Grecia che l'Italia gli hanno permesso negli anni 90 di non pagare i debiti di guerra per la distruzione che avevano creato. Bisogna stare molto attenti. Nel 1990, quando il cancelliere Helmut Kohl decide di riunificare il paese, si oppone al pagamento del restante 50% dei debiti di guerra. dando una pacca sulle spalle a Italia e Grecia, che però mostrano una certa pietas e comprensione. Doveva 278 miliardi alla Grecia, la Germania, tra l'altro 10 miliardi per un prestito forzoso fatto dalle forze di occupazione nazista. Alla Grecia vengono riconosciuti solo 7 miliardi anziché i 14 richiesti. L'Italia restituì la propria parte alla Grecia, ma non Berlino, e appunto il rapporto del luglio 2011 sosteneva che rivalutati mancavano ancora 575 miliardi alla Grecia. Ma quello che voglio dire ai tedeschi è che noi negli anni 90 e anche dopo, nel 50, dopo la conferenza di Parigi, fummo ben attenti a non chiedere i danni di una guerra che aveva creato la Germania nazista, distruggendo mezza, anche più di mezza Europa, no? Perché sarebbero rimasti in ginocchio. E neanche negli anni 90, quando la Germania dovette spendere soldi, ma non c'era il patto di stabilità per la riunificazione, vennero chiesti soldi alla Germania. Questo significa non il mutualismo, ma significa comprendere e avere un'empatia. Mi sembra che qua l'empatia sia morta anche in Olanda, adesso vedremo cosa. E quindi fa specie vedere che gli albanesi danno lezioni di comprensione ai tedeschi e agli olandesi. Poi uno se ne ricorderà magari un giorno. Va bene, ancora ho già detto, dalla Germania oggi arriva un'analisi dei vari saggi economici che dicono sarà inevitabile una forte recessione in Germania, meno tra il 2,8 e il 5,5% del PIL. Ancora dall'Ungheria, ecco, voglio capire cosa ne pensano i sovranisti di questo. Orban ha approfittato del coronavirus, non è che l'Ungheria sia in ginocchio, per chiedere pieni poteri, i pieni poteri. E quindi adesso può governare sulla base dei decreti, chiudere il Parlamento, cambiare o sospendere le leggi esistenti, ha la facoltà di bloccare le elezioni. Spetta a lui determinare quando finirà lo stato di emergenza. Inoltre, chi diramerà false notizie, ovviamente le stabilisce lui quelle che sono false notizie, gli rischierà da 1 a 5 anni di carcere. Hanno votato a favore i deputati di Orban, no? E alcuni dell'estrema destra. E i socialisti ungheresi dicono da oggi inizia la dittatura, ma lui ha risposto: l'opposizione sta dalla parte del virus. Questo, voglio dire, è il modo in cui governa Orban, che tanto piace a alcuni sovranisti. Poteri unici, approfitti del coronavirus per di fatto limitare la democrazia in Ungheria, se va bene così. Sì, sono d'accordo che bisognava a questo punto aver saputo come si sarebbe comportata la Germania negli anni successivi, dire alla Germania: no, i debiti li paghi a scadenza molto lunga, quello che stiamo proponendo noi come debito, ma i soldi per la distruzione che è creata in Europa con il nazismo ce li paghi, e li paghi anche la Grecia. Aver saputo che finiva così 20 anni dopo, con la Germania che prima ha rischiato di far saltare l'euro per punire la Grecia, adesso si oppone a una garanzia. Nessuno chiede soldi dei tedeschi, si chiede la garanzia del risparmio europeo. Poi ognuno pagherà le obbligazioni che ha emesso, anche perché si sta ragionando di avere dei corona bond magari mirati. Devi fare un'opera infrastrutturale, che significa anche la sanità, e metti un corona bond mirato che va solo su quello, non può essere speso per gli stipendi o per i beni intermedi. E a quel punto tu, paese, lo ritorni. La differenza è che la garanzia è di tutta Europa, si chiede solo una garanzia comune, tutto qua. Ma guardate, qualcuno mi fa un esempio: ma se lei avesse un mutuo da 300.000, vorrebbe condividerlo col mio da 100.000? Ma guardi che, se vogliamo parlare di casa unica, di famiglia europea, nelle famiglie succede anche questo. Succede che se uno dei due diciamo genitori o dei due coniugi ha un reddito più alto e viene incontro, cioè garantisce con il suo reddito anche l'eventuale acquisto di un mutuo, volesse esserci una casa per la moglie, garantisce con il suo. Non è che fai la famiglia solo quando ti conviene e poi quando c'è da garantire nei confronti, per esempio, della banca, ognuno per sé o per tutti, eh? Sì, essere, adesso non voglio aprire polemica sulla Germania oggi, penso che la Germania, come disse Crali, ma anche i nostri microfoni, ma anche Sapelli, brava a vincere le battaglie, a perdere tutte le guerre, non a caso, insomma. E in questo momento questa compulsione quasi non neanche egemonica, perché se fosse egemonica avrebbe, si sarebbe presa l'onere lei di dire dove va l'Europa, ma questa idea di si fa come dico io, senza nessun tipo di comprensione per le situazioni altre, avremmo dovuto applicarla anche noi quando loro avevano i costi della riunificazione. Mi dispiace. Allora andiamo sul meteo adesso e poi i provvedimenti presi dal governo, esattamente che cosa capiterà alla distribuzione di buoni per il cibo l'anticipo di cassa ai comuni e la partenza della cassa integrazione e del bonus da 600 euro per autonomi e partite IVA. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora andiamo prima sull'Italia, adesso ripeto non ho voglia di parlare della Germania. Allora Conte nel fine settimana, il 28 marzo, ha firmato il DPCM per 4,3 miliardi ai comuni, quindi bisogna capirsi, c'è un'anticipazione del fondo di solidarietà che doveva arrivare a luglio, quindi non sono soldi nuovi, sono soldi anticipati. Se ho ben capito, nuovi sono i 400 milioni dati ai comuni per distribuire cibo o buoni. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, appena firmato, un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Andiamo su questi soldi. Allora, come diceva il Presidente del Consiglio, è un anticipo di 4 miliardi e 300 milioni, ma la cosa più, a mio avviso, più nuova e più importante sono i 400 milioni. Cioè, se ho ben visto, la distribuzione viene fatta in base alla popolazione ma anche al reddito pro capite, per cui 15 milioni verranno dati a Roma, 7 milioni e 600 mila euro a Napoli, 7 milioni e 200 mila euro a Milano, 5 milioni a Palermo, 4 milioni e 6 a Torino. Ecco perché Palermo ne ha più di Torino, perché si va a guardare non solo il numero di abitanti ma il reddito pro capite, 3 milioni a Genova. E poi micro stanziamenti da 600 euro a testa per una quarantina di piccolissimi comuni. Su base regionale la Lombardia riceve la quota maggiore 55 milioni, alla Campania vanno 50 milioni, alla Sicilia 43, al Lazio 36, alla Puglia 33, al Veneto 27,5, all'Emilia Romagna 24, al Piemonte 24, alla Toscana 21, alla Calabria 17, alla Sardegna 12, alle Marche 9, alla Liguria 8 milioni e 7. E appunto Campania e Sicilia ricevono risorse superiori al Lazio pur avendo un numero inferiore di abitanti, perché c'è il reddito pro capite, così come Reggio Calabria potrà distribuire 1.300.000 euro e Firenze 2 milioni. Quindi la logica è mettere assieme, Gianni, se ho ben capito, numero di abitanti, ma anche media del reddito pro capite? Sì, esattamente, c'è una correzione che cerca di dirottare un po' più fondi verso i comuni dove il reddito pro capite medio del comune è sotto, è distante al reddito pro capite medio nazionale. Questo è un correttivo che naturalmente non porta diciamo più di tante risorse, anche perché le risorse sono limitate. Scusa che ti ho perso. Le risorse, dico, sono limitate a 400 milioni in tutta Italia. Naturalmente il parametro non va diviso per il totale delle famiglie, perché esatto, per il cielo la ampia maggioranza delle famiglie non ha bisogno che il comune gli compri la pasta o lo zucchero. Lì si è individuata una platea potenziale stimata in tutta fretta di circa 1 milione di persone che sono fuori dalle tutele della cassa integrazione, degli altri ammortizzatori sociali estesi dal decreto di marzo, che sono in grandissime difficoltà. È un intervento, diciamo, una tantum per arrivare al decreto di aprile, che dovrebbe mettere nuove risorse sugli ammortizzatori sociali e sulle misure di tutela e di protezione. È una roba fatta in corsa, perché nei giorni scorsi c'erano state tensioni sociali. Esatto. Allora, no, tu hai fatto bene a ricordare, perché ho visto dalla polemica politica ieri, sono 6 euro a persona. No, perché non lo dividi per il numero degli abitanti. Io e te non avremo nulla, giustamente, aggiungo io. Si tratta di darli a una platea più o meno di 1 milione di persone che non hanno né accesso alla cassa integrazione straordinaria o in deroga, né accesso, Gianni, se ho ben capito, al reddito di cittadinanza? Sì, esattamente, perché il problema è proprio, come dire, la platea di persone che sono scoperte dai vecchi e dai nuovi strumenti. Si tratta in particolare di lavoratori stagionali o saltuari e di collaboratori domestici e post, badanti, eccetera. Purtroppo l'incrocio delle vecchie norme di tutela, se tu hai il reddito di cittadinanza, quindi tendenzialmente non hai bisogno di questo aiuto, che è di emergenza assoluta, appunto comprare i beni alimentari di prima necessità, perché te li compri con il reddito di cittadinanza. Ma se sei invece, come dire, un operaio o anche un commesso di un negozio, con le nuove regole puoi andare in cassa integrazione, ma se sei per esempio un lavoratore saltuario non sei coperto dai nuovi strumenti e quindi Secondo me lì va a coprire appunto i lavoratori saltuari, cioè chi restava non tutelato dalla cassa integrazione in deroga. Non è una partita IVA, è un autonomo per cui riceverai 600 euro. Non ha reddito di cittadinanza, perché appunto aveva lavori saltuari, e aggiungo io, Gianni, forse anche alcuni lavori in nero che non avevano chiesto reddito di cittadinanza, perché se poi ti beccano sappiamo che succede, ma magari avevano continuato a lavorare saltuariamente in nero, no? Perché insomma, se poi... Senza dubbio, e aggiungiamo anche una serie di fragilità sociali che sono già seguite dai comuni. I comuni, soprattutto al centro-sud, ma mica solo al centro-sud, già ieri, l'altro ieri, la settimana scorsa, un mese fa, facevano la spesa e davano aiuti alimentari alle persone più fragili. Il problema qual è? Che con il blocco, con il misure di contenimento sanitario, per esempio, si sono chiuse le mense sociali. Le mense sociali, certo. E anche quelle aziendali. E poi stavano finendo i soldi proprio nelle casse dei comuni, perché una serie di entrate, pensiamo per esempio all'imposta sulla pubblicità o a quello che si chiamava il plateatico, il bar che mette fuori i tavolini paga un plateatico, il bar è chiuso, plateatico non c'è più la tassa, e quindi c'è una sofferenza di cassa dei comuni che viene tamponata con le misure che sono sabato. Ok, quindi danno i soldi ai lavoratori in nero. No, guardate, un po' diverso, per favore, non facciamo polemiche inutili. Qui non si sta ancora ragionando su come trattare il lavoro nero. Io sono molto molto scettico nel dire che debba essere equiparato. No, è fatto nero fino a ieri, è commesso un reato. Altra cosa è sapere che per lavori, appunto, come ricordava Trovati, occasionali, golf, badanti in nero o lavori stagionali in cui non c'era nessuna contrattualizzazione, non entri ed eri Anche se fossi stato in chiaro, non entravi, perché non puoi dare la cassa integrazione in deroga a un collaboratore occasionale e non rientra nei 600 euro degli autonomi e delle partite IVA. Quindi ci sono già anche delle casistiche in chiaro, legali. È ovvio che questa cosa di emergenza per spese alimentari, non si tratta di ripianare l'attività che hai perso, va a sommarsi, diciamo, o a integrare quello che già è concesso con la cassa integrazione e con il reddito di cittadinanza. E a questo proposito volevo capire, Gianni, come funzioneranno questi bonus? Cioè il comune riceve, stavo leggendo la lista prima, sono tutti inclusi, ho letto solo i principali. Vibo Valentia, che è il paese più povero d'Italia sulla base della dichiarazione dei redditi, riceverà 20.400 euro. Parto da lì. Ok. Cosa farà di questi 20.400 euro Vibo Valentia? Gianni? Ho perso Trovati, adesso lo riprendo, tanto ho il traffico, e poi riprendo Trovati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, nell'attesa di ritrovare Trovati, guardate che cioè dovete sbagliate a scrivere a me sul nero, io ho sempre criticato ben prima del coronavirus il nero, e dicevamo la battuta, è inutile scrivere io non pago le tasse finché non ho i servizi adeguati, perché poi se stai male, se hai bisogno dei vigili del fuoco, se hai bisogno della polizia, se hai bisogno di un autobus, di qualunque cosa, poi intanto i servizi li hai comunque e sono pagati da chi paga le tasse tutte, quindi io non ho cambiato idea neanche di una virgola, e anzi, se qualcuno adesso che ha fatturato, dichiarava 8.000 euro, 20.000 euro l'anno scorso, il ristorante X, e adesso lamenta in due mesi 8.000 euro dei danni, dovrà poi giustificare l'agenzia delle entrate o una o l'altra. Se dichiaravi 30.000 euro in un anno e sostieni che però già in due mesi hai avuto 8.000 euro dei danni, delle due l'una, o hai fatto nero e ti becchiamo, se no non ti becchi il compenso. Si tratta però di capire come tutelare quelle posizioni di lavori occasionali e di chi non è tutelato, altri strumenti per la parte alimentare. Siccome ho trovato Trovati, eccoci qua Gianni, ci puoi spiegare, dicevo, l'esempio del comune di Vibo Valentia, che è il paese più povero d'Italia in base alla dichiarazione dei redditi del 2017, vanno 20.000 euro. Cosa farà il comune con questi 20.000 euro? Comprerà o dei buoni spesa da spendere appunto al supermercato per le persone più povere, oppure comprerà direttamente dei beni alimentari di prima necessità per chi ne ha bisogno, e lì a decidere l'una o l'altra modalità saranno i servizi sociali, perché i servizi sociali del comune conoscono, devono conoscere, dovrebbero conoscere la platea a cui rivolgersi, e quindi sapere quando tu puoi affidare un buono spesa, sicuro che la spesa, diciamo così, verrà fatta per i beni di prima necessità, e quando invece c'è anche una fragilità di altro tipo, per esempio una dipendenza o altro, quindi si evita che con il buono spesa si comprino il vino invece che i beni di prima necessità. E la cosa interessante è che viene lasciata una libertà totale d'azione ai comuni, proprio per questa ragione, perché difficilmente al governo si conoscono, come dire, le fragilità sociali delle famiglie di Vibo Valentia o di Torino. E poi sarà responsabilità del sindaco dire: questi 30.000 euro li uso per prendere, poniamo, 300 buoni da una certa cifra, oppure 30 buoni da 1.000 euro. Sì, anche questo, perché non c'è da scialare. No. E dubito che ci sia del danno erariale che si possa nascondere dietro. Anche perché sono buoni per acquisti alimentari, cioè non ci puoi comprare. Assolutamente sì, la cosa è che si fanno in deroga. E si fanno in deroga tutto il supermercato. Gianni, ancora due domande al volo. La prima riguarda, qualcuno mi scrive: io sono invalido al 100% con 295 euro al mese, lì però forse non so se posso ottenere qualcosa in più dal reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza invalido, oppure farsi aiutare dal comune, oppure che farsi aiutare dal comune, qualcosa può fare come emergenza. Poi veniamo invece al fronte di quello che dovrebbe partire per gli altri, cioè autonomi e cassa integrazione in deroga. Da questo punto di vista, se ho ben capito, dal primo aprile, sembra quasi uno scherzo, ma insomma da inizio aprile, diciamo così, Si farà un click sul sito dell'INPS per ottenere i 600 euro per co e partite IVA e autonomi, giusto? Sì, esattamente. Il decreto ministeriale è uscito sabato e prevede un paio di parametri, in particolare per i professionisti, per le perdite di reddito degli autonomi professionisti, cioè fino a 35.000 euro di reddito dichiarato l'anno prima, oppure fino a 50.000, però in questo caso fra 35 e 50.000 devi certificare una perdita di fatturato di almeno il 33%. Quindi tra 35 e 50.000 deve aver avuto almeno il 33% di fatturato in calo. Anche qui, se tu sei uno che ha fatto nero, diventa più difficile. Però stiamo parlando di 600 euro che valgono per il mese di marzo? Che valgono una tantum, che quindi per il mese di marzo, e poi dovrebbero essere ribaditi e un po' rafforzati almeno per un altro paio di mesi dal decreto di aprile, che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Allora, cassa integrazione in deroga, da quando parte invece? La cassa integrazione in deroga, giurano che, allora, è partita, è arrivato i provvedimenti applicativi, quello che deve arrivare sono i soldi sui conti correnti dei diretti interessati. Il governo giura che entro metà aprile i soldi arriveranno, l'ha detto Conte, l'ha detto Gualtieri, vedremo se sarà vero, perché i tecnici invece hanno qualche perplessità dal momento che le procedure non sono semplici. Allora, ultima domanda, si sta ragionando, e ti faccio ascoltare cosa ho detto questa mattina con Simone Spezia e Maria Latella, il presidente dell'ANCI dei Comuni Italiani, nonché sindaco di Bari, Antonio De Caro, sull'estensione del reddito di cittadinanza. Cioè, noi abbiamo uno strumento che, ripeto, io ho sempre elogiato per la parte di welfare, sempre criticato per la parte di politica attiva sul lavoro, che si potrebbe estendere, qualcuno dice, come reddito di emergenza, cioè andare a integrare, e così metti dentro anche tutti quelli che in questo momento non hanno fatto ricorso perché avevano altre forme, devo dire, illegali in molti casi, di, oppure avevano dei lavoretti appunto occasionali legalissimi e non potevano aderire al reddito di cittadinanza. Sentiamo De Caro. Credo proprio di sì. Il reddito di cittadinanza, indipendentemente da come ciascuno di noi pensa che debbano essere utilizzate le risorse, di certo quell'utilizzo delle risorse ha permesso a tante famiglie di stare in piedi, è stato un sostegno a famiglie che non avevano nulla. In questo momento particolare, in cui quelle famiglie non possono nemmeno uscire, se non avessero avuto il reddito di cittadinanza, era un altro problema che i sindaci dovevano affrontare, un problema, un'emergenza dal punto di vista sociale, che diventava un'emergenza dal punto di vista alimentare. Non è che possiamo lasciar morire di fame le persone. Allora, per concludere, Gianni Trovati, questa è l'altra ipotesi su cui sta lavorando, più strutturale, però mi sembra, non tanto una tantum? Però attenzione, che i soldi sono quelli che sono, anzi sono quelli che per il momento non ci sono ancora, la cassa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali assorbono molti miliardi al mese, quindi quello che si sta pensando è un ampliamento di queste forme di tutele di ammortizzatore sociale, ma per un paio di mesi. Insomma, siamo pienamente dentro la logica dell'emergenza. Facciamo notare che su 25 miliardi del provvedimento emergenziale di marzo, ben 14 se ne vanno per la cassa integrazione in deroga, cioè, perché è tanto, vuol dire, permette la cassa integrazione anche a chi ha uno o due dipendenti con il 60-70% dello stipendio, e poi costa, questo lo dico perché... Comunque, grazie intanto a Gianni Trovati. Noi ci spostiamo invece sull'altro tema di dibattito, che non è come tamponare l'emergenza sociale in questo momento, ma è come strutturare degli aiuti attingendo a un debito che ripagheremo noi, lo dico per la terza volta. Non è che chiediamo ai tedeschi o agli olandesi di pagare il nostro debito, quello che si chiede nell'ipotesi di corona bond o di euro bond è che la garanzia sulla solvibilità di questo debito sia data a livello europeo, in modo da non venire bastonati come singolo paese dai mercati, dalla speculazione, finita questa emergenza. Allora, parliamone come sempre nell'appuntamento con l'editorialista del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, nel Dietro la Notizia. Dietro la Notizia. Allora Alessandro, buonasera di nuovo ad Alessandro Platerotti. Buonasera a tutti quanti, mi hai fatto una sintesi perfetta, quindi la situazione è esattamente quella. Aggiungo semplicemente che da questo Corona Bond, che sarebbe poi un primo esperimento in vista di un euro bond vero e proprio, questo non è fuori discussione, ma ci dovremmo prendere anche le risorse per tutte queste operazioni di intervento sociale che sono importantissime. Allora facciamo subito un riassunto. La scorsa settimana abbiamo subito questa umiliazione cosciente dall'Europa che ha rifiutato l'aiuto attraverso la condivisione del Corona Bond. È un'operazione morta? No, è stato un errore tattico, perché ci hanno mandato avanti i francesi e spagnoli soprattutto, e abbiamo trasformato una questione che riguarda tutti in un problema solo nostro. E infatti, non a caso, oggi sia la borsa che il titolo di Stato italiano sono quelli che hanno sofferto di più, in un momento poi fra l'altro di generale stabilità, mi sembra di dire, perché abbiamo concentrato su di noi tutta l'attenzione. Quindi aspetta un attimo che ti sento un po' male, ripensando con lui, tu dici... il tema è tuttora sul tappeto, è stato un errore tattico, o meglio trasformare in un problema italiano, ci hanno spinto davanti ad aprire le danze gli spagnoli e i francesi, e lì poi ti ho perso, dimmi. Ecco, gli spagnoli e i francesi che naturalmente hanno andato avanti noi come se fosse un problema solo nostro, tant'è vero che è diventato quasi il salva Italia, ma non è un salva Italia perché riguarda tutti. Allora, che tempo abbiamo davanti? Ci sono circa 50 giorni, perché all'inizio di maggio la Corte Costituzionale tedesca dovrà dare via libera, autorizzare, cioè la nuova misura da 850 miliardi, quella decisa dalla BCE pochi giorni fa, la scorsa settimana, per sostenere i mercati finanziari, il famoso quantitative easing. Quello deve essere approvato dalla Corte Costituzionale. L'orientamento attuale è negativo. Loro richiederanno sicuramente, da quello che siamo riusciti a capire, delle garanzie in più sul fatto che i tedeschi vogliono che non si vengano a comprare azioni o altri titoli diversi dalle obbligazioni, questo vogliono, ma insomma sono concessioni. Il problema qual è? Che se la Corte Costituzionale tedesca dovesse dare un parere negativo, senza che sia stato un accordo sul Corona Bond, beh, il mercato crolla. Allora, no, aspetta, perché purtroppo abbiamo di nuovo problemi col collegamento con Platerotti. Allora, io però sento meglio degli ascoltatori, lo dico agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, perché ho le cuffie. Allora, io risintetizzo, poi dopo il GR24, dopo la protezione civile, riprenderemo il collegamento. Si deve esprimere la Corte Costituzionale tedesca sul piano straordinario che porterà il deficit tedesco al 3%, ed è probabile che metterà altre condizioni su questo. Adesso però, mentre cerchiamo di riprendere il collegamento con Platerotti, vado tanto sul GR24, poi come sempre avremo l'aggiornamento della protezione civile, e poi riprenderemo il ragionamento sulla tattica nel corona, nella dialettica europea sul corona bond, e vediamo se riusciamo a fare anche come si stanno muovendo i consumi degli italiani obbligati alla quarantena. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te, e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, in attesa di ascoltare i dati della conferenza stampa della Protezione Civile. Volevo concludere il ragionamento di Alessandro Platerotti, che ci stava ricordando come la partita tattica sugli euro bond, sui corona bond, sia iniziata, diciamo, mandando avanti l'Italia a fare da apripista e quindi sbagliando forse ne trasformare come un caso italiano, ma è una partita che si sta giocando oltre che con la Corte Costituzionale tedesca, che deve dare via libera al piano ingente da 150 miliardi di euro che porterà il deficit tedesco al 3%, ma e darà anche alcune condizionalità. Alessandro, lì ci eravamo fermati. Esatto, proviamo a concludere così. Probabilmente abbiamo 30 giorni prima della Corte Costituzionale, per quale motivo? Perché se la Corte Costituzionale lo boccia, quest'anno della BCE, oppone condizioni molto forti, il mercato riviene giù nuovamente, soprattutto i titoli di Stato. Questo è un lusso che non si può permettere né noi né l'Europa, per cui sarà 30 giorni in cui sarà la leadership tedesca che dovrà, e olandese, che dovrà fare un'opera di convinzione politica all'interno. Questo non è un dibattito politico internazionale. Ogni paese che si oppone agli euro bond o alla condizione di qualche forma del debito per affrontare la crisi, beh, questo è un dibattito che loro devono affrontare, anche perché alternative non ce ne sono. L'errore italiano qual è stato? Quello di puntare al massimo della posta troppo presto. Francesi e spagnoli, come dicevo prima, hanno un rapporto fra debito e PIL che è molto migliore del nostro, noi abbiamo altissimo, quindi hanno più tempo per prima che il mercato gli si possa rivolgere contro. I francesi lo stesso. Risultato, adesso le ipotesi su cui si sta lavorando sono quelle di una possibile emissione di corona bond, questo dovrebbe naturalmente strutturarsi entro 30 giorni, senza ricorrere all'ESM, ma passando eventualmente per una emissione di bond da parte dello stesso ESM. Questo eviterebbe qualsiasi altra procedura di commissariamento del paese. Altrimenti c'è anche l'ipotesi che lo possa fare la stessa commissione direttamente, e non richiederebbe in questo intervento di questo genere nessun voto parlamentare in Europa, perché ricordiamo che su queste operazioni alla Germania ad esempio passa spesso per il Parlamento / Corte Costituzionale per farle approvare, quindi il tempo ci potrebbe essere. Detto questo, non ci sono alternative, quindi per l'Europa diventa una questione di tenuta non solo politica ma anche finanziaria, perché la BCE, oltre a quello che ha fatto finora, difficilmente potrà fare. Non solo, se si approva entro, diciamo, un mese un'operazione di emissione di bond per il coronavirus, questo toglie la pressione dalla BCE su un ruolo che non ha, ovvero quello di fare salvastati. La BCE dovrebbe fare semplicemente la stabilità dell'euro o la ribarra di uno dell'economia adesso, ma non certamente questo lavoro improprio che ormai è stato assegnato. Okay. Io credo che questa sia un po' l'analisi. Attenzione, perché domani c'è l'asta dei titoli di Stato a 10 anni italiani, BTP. Quello per noi sarà un test fondamentale. Oggi abbiamo visto salire i rendimenti, quindi il mercato ci chiederà di più. Questo è il primo test dell'emergenza coronavirus, quindi seguiamolo con attenzione. Allora, grazie anche Alessandro Platerotti. Adesso andiamo sulla conferenza stampa della Protezione Civile che è appena iniziata, 812 decessi più di ieri. Circa 11.805, sono 11.805 i volontari che sono impiegati nell'emergenza, a cui si aggiungono le forze di polizia, le forze dell'ordine e le forze armate, oltre che il personale sanitario. Altro dato che vi voglio dare è quello aggiornato sulle donazioni. Sapete che è aperto un conto corrente per le donazioni in favore del Dipartimento della Protezione Civile. Questo conto corrente verrà utilizzato per l'acquisizione di DPI per il personale sanitario, per l'acquisto di ventilatori e per l'acquisto di altri dispositivi medicali. Oggi siamo arrivati a 63.894.300 euro, il dato fino a poco fa. Allora, riassumo io, dunque ci sono 812 decessi più di ieri che portano le vittime a 11.591, ahimè. Faccio notare che ieri ce ne sono stati 756, con un aumento dell'8%, il giorno prima 10 per 889, prima ancora 969, sembra essersi abbastanza stabilizzato intorno a questa cifra. Mi sembra molto positivo invece, allora, molto più, quindi più 8% i deceduti, mi sembra molto molto positivo il dato sui nuovi positivi, che è solo del 2%, 1.648 positivi, poi ci sono 1.590 guariti più di ieri. Ma vorrei concentrarmi un attimo sul perché sappiamo che di questi positivi ormai siamo abituati a sapere che un 10% più o meno finisce in terapia intensiva nelle proporzioni, Domenica l'incremento era stato di 3.815, quindi oggi il dato è il più basso nella mia serie come aumento dei positivi da addirittura da mercoledì 11 marzo, quando avevamo avuto 2.000 positivi in più e il giorno prima 1.500 positivi in più. No, lo dico devo dire, perché senza avere facili ottimismi, anzi, però l'aumento dei positivi in questi giorni obiettivamente è calato, perché da domenica scorsa avevamo fatto più 9% su sabato, lunedì abbiamo fatto più 8% su domenica, martedì più 7%, mercoledì più 6%, giovedì più 8%, venerdì più 7%, sabato più 5%, ieri più 5%, oggi più 2%, sembrerebbe, e i ricoverati totali sono il più 2%. Certo che con i 1.590 abbiamo superato complessivamente 100.000 contagiati complessivi tra i deceduti, i guariti e chi è ancora invece in cura. Però il dato mi sembra obiettivamente di un appiattimento, poi vedremo se verrà confermato domani, ma insomma ieri avevamo fatto più 5, il giorno prima più 5, più 7, 1.648 sono molto pochi, anche se paragonati a quello che sta avvenendo in Francia e in Spagna ogni giorno, e appunto i deceduti sono 812 più 8% in linea con l'aumento di ieri rispetto a sabato. Sabato i deceduti erano stati più 10%, venerdì più 12 rispetto a giovedì, giovedì più 9, più 10. E quindi c'è un dato stabilizzato sui deceduti, però c'è un dato buono sui 1.648 contagiati, che sono appunto più di ieri e che è la metà rispetto, infatti Borrelli poco fa ha detto mai così tanti guariti in un singolo giorno, 1.590 guariti. Beh, diciamo che insomma il fatto dei guariti e il fatto dei deceduti sono elementi positivi. So che molti si stanno già così esercitando sulle possibili tappe date dell'unlockdown, cioè di quando sbloccheremo il paese, parte del paese e parti del, soprattutto diciamo, non tutte le regioni stanno per fortuna andando come la Lombardia, anzi per ora si registra una tenuta del centro-sud, Lazio, ma non solo, insomma, speriamo di non essere smentiti, ci mancherebbe. Okay, e questo per quello che riguarda in terapia intensiva, di solito sono il 10%, per cui adesso aspetto il dato sui nuovi in terapia intensiva, ma siamo abbastanza abituati che siano più o meno il 10% di quelli che risultano positivi, e ed eccolo qua il dato, e quindi contagiati in più sono 1.648, sappiamo che più o meno la metà in proporzione la trascorre la quarantena a casa, più o meno la metà la trascorre meno ospedale, e di questa del totale il 10% di solito va in terapia intensiva, quindi mi sembra di poter dire che più o meno saranno sulle 160-170 persone, non ho il dato però in questo momento. E vediamo, devo dire, Sicilia 1.400 positivi, più 95 rispetto a ieri, ricoverati 559 pazienti, 4 in più in terapia intensiva. Per ora, ripeto, faccio qualunque scongiuro, ma il centro-sud mi sembra tenere rispetto al dramma della Lombardia e non solo, anche dell'Emilia, in parte del Veneto. In Calabria ci sono 33 positivi in più di ieri e quindi praticamente sono in tutto 647 positivi in tutta la Calabria, un dato che mi sembra ancora gestibile, ecco, da questo punto di vista. Comunque andiamo sul traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Certo che abbiamo superato i 100.000 contagiati, siamo a 101.739, viaggiavamo a 99.000, cos'era il dato di ieri, e chiaramente 97.689, quindi 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, vedo che molti mi scrivono su un tema dibattuto, ma non faccio il virologo. La maggior parte dei positivi a casa e senza tamponi, come si fa? Ho capito. Però quello che dobbiamo guardare è la curva di quelli che vengono a scoperti, o meglio che vengono definiti appunto positivi, e anche l'andamento B dei deceduti, oltre che dei ricoveri in terapia intensiva. Mi sembra che diciamo, ci sia perlomeno un appiattimento. Non voglio essere ottimistico, ma insomma, ormai dicono tutti i virologi e gli statistici, bisogna guardare il dato non solo giorno per giorno, ma nella settimana. Ecco, da lunedì scorso registriamo questo incremento che è tra l'8 e il 5%, il 2% di oggi, dei nuovi contagiati, ed è tra è sceso dall'11 all'8% nei deceduti. No, i deceduti sono meno di venerdì, meno di sabato, leggermente più di ieri, sono 812, ieri erano 756, sabato 889, venerdì 969. Comunque, cito di nuovo le parole di Borrelli, commissario della Protezione Civile: mai così il numero più alto di guariti in un singolo giorno, 1590, che porta il totale a 14.620. Andiamo adesso non tanto sulle borse, che già davo, e soprattutto le banche oggi hanno pagato pegno per via dell'indicazione della BCE che ha chiesto alle banche vigilate di non distribuire dividendi, di fare buyback di azioni. Unicredit perde il 7,5%, Intesa il 6%, Banca Mediolanum il 4,90%, Mediobanca il 3,60%, Banca BPM meno 3,60%, anche su UBI meno 2,90%, peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione Atlantia meno 7,5%, bene però gli altri, Recordati più 7,60%, Diasorin più 7,30%, Italgas più 6,30%, 2A più 6%, Nexi più 5,5% come Snam, il 5% lo guadagna Stima Electronics, il 4,80% era, il 4,5% Eni, il 3,70% Enel, il 2,60% Moncler, il 2% Unipol e Fineco. Alla fine Milano ha chiuso leggermente in positivo, più 0,30%, Parigi più 0,60%, Francoforte più 1,90%, Londra più 1%, Dow Jones in questo momento più 2,20%. E andiamo allora per quello che riguarda alla parte che ha a che fare con le abitudini dei consumatori. Perché? Perché tutto sta cambiando in queste settimane. Abbiamo già dato i dati della Nielsen sulla grande distribuzione, sui negozi di prossimità, con incrementi tra il 22 e il 16%. Qualcuno mi scrive: ma questi incrementi nei consumi della distribuzione organizzata o dei negozi alimentari non possono in qualche modo riequilibrare le mancate vendite del mondo alimentare, vitivinicolo, di chi produce appunto generi alimentari, nei ristoranti, negli hotel, Oreca, come si chiama in gergo, hotel, ristoranti e catering? Sì, anche se solo in parte, da quello che vediamo, e comunque è chiaro che l'offerta delle volte è più bassa come qualità, se sono, voglio dire, rispetto a è più bassa l'offerta in generale, non è che si bassa la qualità rispetto a quella dei ristoranti. È chiaro che questo non compenserà però gli stipendi dei camerieri, dei cuochi, dei ristoranti, del personale di servizio. Potrebbe permettere alle imprese che producono beni alimentari o vino o altri beni, diciamo, bevande, di tenere più botta rispetto ai crolli, perché lì siamo a zero, che stanno registrando nell'altro canale distributivo. Valeria Santoro, che è Country Manager di Stoccard Italia, buonasera. Buonasera. Ecco, voi tra l'altro avete un osservatorio che vi permette di guardare come fanno, dove spendono e quando spendono, oltre che quanto, i cittadini nei supermercati e negli ipermercati. Voi avete un dato interessante tra il 9 e il 22 marzo. Che cosa avete scoperto? Esatto, noi abbiamo osservato gli acquisti dei consumatori nelle settimane Covid, dal 9 al 22 marzo, e li abbiamo messi a confronto con la settimana pre-Covid, dal 10 al 16 febbraio. E abbiamo fatto un'analisi sui comportamenti, quindi abbiamo neutralizzato l'effetto Covid dal punto di vista del numero di acquisti, e abbiamo ottenuto, quindi abbiamo fatto 100 i consumi, gli acquisti durante le diverse settimane, perché abbiamo voluto verificare il peso di ogni singola giornata, quindi abbiamo voluto vedere quanto fosse la concentrazione degli acquisti e quindi del flusso, se vogliamo, di persone, sì, di consumatori nei punti vendita della GDO, quindi ipermercati e supermercati, e abbiamo visto dei picchi sull'inizio della settimana, quindi un più 21% sul lunedì, un più 22% sul martedì. Questi picchi si appiattiscono poi dal mercoledì fino al sabato, seppur con una percentuale positiva, il mercoledì più 13%, il giovedì più 6%, venerdì più 3%, mentre il sabato e la domenica vediamo invece dei picchi negativi, quindi sabato meno 14%, domenica meno 48%. Sappiamo tutti naturalmente che sulla domenica c'è un particolare, che è appunto le misure restrittive sulle diverse regioni e le misure che hanno applicato le stesse catene in alcuni casi. Vedi in Lombardia, dove per esempio, anche se l'ordinanza permette alla GDO di essere aperta durante la domenica, alcune catene come Esselunga per esempio è chiusa al pomeriggio. Quindi la prima cosa che avete notato è da questo punto di vista che si spalma, non ci sono più i picchi nei weekend o alla sera, ma questo era chiaro, una volta si faceva, abbiamo fatto anche una battaglia per tenere aperti i centri commerciali la domenica, una volta chiaramente, visto che uno lavorava, tendeva a accumulare gli acquisti in quei giorni. In realtà la quarantena forzata ha distribuito meglio sulla settimana, che è molto importante, esatto, adesso, avendo molte più persone che vanno a fare la spesa, perché non ci sono ristoranti, pizzerie, bar e quant'altro. Sì, diciamo che i consumatori si sono autoregolati, poi alla fine quando stai più di un'ora a fare la fila è chiaro che cerchi di trovare quali sono gli orari alternativi dove le file sono più corte, quindi per questo motivo effettivamente, come hai detto, c'è stato un po' uno spalmare gli acquisti e quindi distribuire i momenti di acquisto durante tutto l'arco della settimana. Certo. Infatti voi avete un dato più 21% il lunedì rispetto al lunedì del 10 febbraio, e più 22% il martedì rispetto al martedì dell'11 febbraio, più 13 il mercoledì, più 6 il giovedì, più 3 il venerdì e addirittura meno 14 il sabato, esatto, rispetto al sabato tipico di febbraio, e meno 48% la domenica. Però lì, sì, mi stava dicendo che è influenzato anche dal fatto che alcuni la domenica abbiano deciso di chiudere nonostante, esatto, potessero tenere aperti. Per concludere, dottoressa, questo che indicazione ci dà sul tema molto delicato invece degli orari d'apertura dei supermercati, negozi alimentari, ipermercati? Ma allora, direi che come indicazione c'è quella che il consumatore si è autoregolato, quindi ha permesso quindi maggiore respiro proprio ai tempi, al ritmo di lavoro del personale dei supermercati e degli ipermercati. Quello che è interessante è anche notare che se guardiamo gli orari di apertura, dall'apertura fino alla chiusura di ogni singola giornata, quello che è interessante è che nuovamente i consumatori si sono regolati a tal punto che vediamo l'orario di apertura dei negozi e l'orario di pranzo essere due orari che vedono un picco rispetto alla settimana pre-Covid. Cosa voglio dire? Che se normalmente gli orari più di punta sono le 11, mezzogiorno nella mattina e le 18 nel pomeriggio, in realtà la mattina ha ampliato la sua curva partendo molto presto, quindi proprio ad orario di apertura, non solo, ma continuando durante l'orario di pausa pranzo, mentre invece il picco del pomeriggio si è abbassato, quindi non c'è più un picco altissimo sulle 18, c'è un picco più basso. Va da sé che lavorando tutti quanti da casa, quelli che lavoriamo, certo, chiaramente ci siamo autoregolati tutti quanti in questo modo, e anche qui vediamo la domenica appunto in maniera coerente, in effetti un appiattimento verso il basso della curva sugli orari pomeridiani, proprio per quello che stavamo dicendo, tanto che la prossima nostra analisi sarà per tipologia di regioni rispetto alle ordinanze. Quindi questa settimana stiamo preparando e concludendo un'analisi che va ad aggregare le regioni che hanno adottato la stessa ordinanza sugli orari di apertura e chiusura, proprio per vedere i comportamenti su queste regioni. Sa bene come insomma abbiamo letto tutti quanti sui vari articoli. No, ma certo. Che poi ogni regione si è mossa, cioè c'è chi ha fatto scelte anche più drastiche, penso al Veneto di chiudere la domenica. Grazie anche a Valeria Santoro, country manager di Stoccarda Italia. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani in diretta dalle 17 in poi. Un augurio di buona serata, da passare rigorosamente in casa, tranne che per chi dovrà lavorare. E invece, appunto, il programma torna domani.